Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Un cammellino chiese all'altro cosa avesse nel suo pacchetto e questi gli rispose che aveva un bel ricordo. Disse che stava portando via l'immagine di Filippo con le sue ultime scarpe nuove. Il console ebbe un brivido. Cercò nella memoria l'immagine di suo figlio Filippo con le sue ultime scarpe nuove e non la trovò. Frequentai la prima elementare nel 1969 in una scuola fortemente conservatrice. Per darvi un'idea, noi si cantava La leggenda del Piave marciando guidati dall'insegnante con fischietto. I maschi in casacca nera e fiocchetto azzurro, le bimbe camice bianco e fiocco rosa. Il sussidiario aveva le immagini delle bombe a cui dovevamo fare attenzione. Quelle tedesche avevano il manico di legno mentre la parte esplosiva era disegnata in giallo. Quelle americane e inglesi erano disegnate in verde e avevano forma di ananas. Dove vanno a finire i vostri ricordi? Cosa significa pensare alla vita eterna se non pensare a un luogo in cui i nostri ricordi sopravvivano? Sono due giornate particolari, oggi e domani, che nella tradizione più radicata del nostro paese sono dedicati a due particolari stati dell'essere. L'uno è dedicato ai santi, quindi a coloro che si mantengono nella memoria per le loro virtù eroiche. Hanno fatto qualcosa di eroico, hanno avuto una eroica virtù, testimonianza della fede, vita retta, atti di giustizia suprema, quindi per la loro eroica virtù rimangono nella memoria. Domani è il giorno dei defunti. Sono le persone che una volta l'anno, proprio perché non sono più rappresentabili nella loro forma fisica e cosciente, vengono rievocate attraverso la memoria. I cammellini della memoria, che avete sentito soltanto citato, era una mia maniera che ho usato per tanti anni per dare un senso a queste due giornate. Io sono 30 anni che parlo alla radio, qui sono due giorni di ponte in cui normalmente uno non dà argomenti precisi, non se ne interessa molto della cronaca, dell'attualità, ma vuole in qualche maniera dare un contributo a due giorni in cui il pensiero, anche nelle più laiche delle persone, va oltre quello che è l'immediata contingenza. Io ho sempre usato i cammellini della memoria. È un racconto scritto da Filippo Martinez, che era un mio amico, che il giorno dei suoi 50 anni, ma penso che sia stato il 1999, era prima del 2000, tanti anni fa, fece una grande festa e disse: signori, oggi compio 50 anni e oggi io sono morto. E da quel giorno Filippo Martinez è morto a tutti gli effetti. Non è importante se lui sia rappresentabile nella sua forma fisica, lui ha deciso che è morto e si comporta nella felice e folle maniera in cui si comporta una persona che ha la consapevolezza di essere morto. E il suggello letterario della sua morte volontaria, pubblicamente confermata e comunicata attraverso una grande festa, Ciubracammo vicino a Oristano, siamo stati tutta la notte a ballare, a cantare. Mi ricordo la mattina mi trascinavo ancora ubriaco, è una bellissima festa di un amico che muore. Ci lasciò questo racconto dei cammellini della memoria. Fece una profezia, lui non sapeva nulla di tecniche digitali, di culture digitali, di internet, ma ebbe un'intuizione. Raccontò la storia di un vecchio console che un giorno, mentre si faceva la doccia, anzi una sera, vide un piccolo cammello che usciva dalla sua orecchia, da una delle sue orecchie. Prende questo cammello fra due dita e dice: cosa sei? Dice: guarda, mi hai beccato, sono un cammellino della memoria, tu stai per morire, morirai tra un tot di giorni, di ore, di minuti, di secondi, e come tutte le persone che muoiono, pacchetto dopo pacchetto, i tuoi ricordi usciranno dalle tue orecchie. I cammellini della memoria hanno questa funzione psicopompa, cioè di prendere i pezzetti della tua vita e portarteli via. E infatti, quando anche l'ultimo ricordo uscì dall'orecchio del console e l'ultimo cammellino portò via il ricordo di lui che andava a comprare le scarpe nuove a suo figlio Filippo, il console morì. Il mio ricordo. Il traghetto per Olbia e la trasferta per Alghero. Un ragazzo che mi guardava guardare il mare con l'impazienza di scappare. Un ragazzo brutto, ma dolce e bellissimo nello sguardo compenetrato. Uno sconosciuto che mi ha tranquillizzato con la comprensione dei suoi occhi castani e profondi. Gli ho regalato un fiore che avevo messo fra le pagine di Marco Valdo e non se ne è meravigliato. come mai aveva fatto. Ogni anno che io rivocavo i cammellini nella memoria e raccontavo questa storia, gli ascoltatori, ma in varie fasi della mia vita radiofonica, mi mandavano i loro cammellini, i loro ricordi, quelli che loro volevano affidare a qualcosa che sapevano che sarebbe sopravvissuto alla loro avventura terrena. Quindi lo faccio anche questa giornata, suggerendo una riflessione. In realtà, con grande profondo rispetto e partecipazione per tutti gli universi di fede possibili, noi ci stiamo costruendo la nostra forma di immortalità ogni giorno, avendo un luogo di comune condivisione e di totale possibilità di collocazione di ogni nostro ricordo, di ogni atto della nostra vita, che in realtà per molti di noi potrebbe rappresentare il sostituto dell'eternità. Voi pensate nella rete, soprattutto nei social media, quanto queste due giornate possono avere una loro laica rappresentazione. La rete è il luogo in cui ognuno di noi celebra le proprie virtù eroiche. Siano anche esse detestabili, ci sono i ragazzini che picchiano il portatore d'handicap, fanno atti di vandalismo, si filmano con i telefonini e lo mettono in rete, perché per loro in quel momento, nella loro sciagurata e sconquassata adolescenza, è un momento epico. Quindi loro si sentono in quel momento eroici e il loro eroismo viene celebrato mettendolo in rete. Ma allo stesso tempo è il luogo in cui vengono messe le foto delle cerimonie, le foto dei momenti felici, le foto degli occhi innamorati, le foto dei segreti indicibili. È altrettanto vero che tutto questo va a costituire un grande archivio di ricordi, come se noi fossimo gli artefici domatori dei nostri cammellini della memoria. Il console era ormai vecchio. Quella notte, come ogni notte, stava facendo la doccia prima di andare a dormire. Mentre si insaponava ricordava sua moglie Elisabetta. La rivedeva sorridente mentre lo prendeva in giro appoggiata al frigorifero. Il mio cammellino è l'odore dell'olio di ricino che mischiavamo alla miscela del motorino per lasciare una scia da bolide al nostro passaggio. Non ricordo perché, ma a fine anni 60 il profumo di ricino bruciato da un due tempi corrispondeva a misteriose e illegittime elaborazioni al canonico alesaggio di quel cinquantino. Davamo olio di ricino come squadristi ai nostri minarelli spompati ed eravamo ebri di velocità come artisti dadaisti. Nemmeno me l'ero ricordato. Questo era un mio cammellino che scrissi probabilmente una decina d'anni fa. Un ricordo olfattivo della scia fortemente eroica del mio motorino quando ci mettevo l'olio di ricino. Aveva quell'odore da conquistatore, quell'odore fortissimo, sembrava napalm. E dove andavo, rumorosissimo e spocchioso e vigliaccamente sprezzante della quiete altrui, mi sentivo Dio. E questo è un detestabile ricordo, è un momento di mia scellerata virtù che col passare del tempo, con gli anni, con una modesta e moderata saggezza posso ricordare come un momento probabilmente non fra i migliori, ma lo lasciai 10 anni fa in una radio pensando ai cammellini a memoria e oggi mi riappare, viene in superficie. E questo è probabilmente il più grande miracolo della nostra evoluzione contemporanea, che è fatta di una confidenza per alcuni molto, molto sospettosa, per altri totale, incondizionata, verso delle macchine che lentamente cominciano a organizzare e conservare frammenti della nostra vita. La nostra vita, in realtà, la maggior parte di noi non aspiriamo alla santità, non aspiriamo a virtù eroiche. I nostri eroismi sono piccoli episodi quotidiani a cui noi diamo un grandissimo valore. Per noi sono momenti epici, per me lo era l'odore dell'olio di ricino del mio motorino, per un'altra signora è stato il traghetto che la portava verso la Sardegna. Per voi che ascoltate possono essere infinite cose che ricordano momenti della vostra vita, della vostra fanciullezza, dell'età adolescenziale, dell'età adulta, della contemporaneità che state vivendo. Tutti i momenti legati a una sorta di turbinio di sensazioni fisiche. In ognuno dei nostri sensi rimane appigliato qualcosa di frammenti della nostra vita. E quando noi riusciamo in qualche maniera felicemente, attraverso una poetica spontanea, a immobilizzare questi momenti, a condensarli e a trasferirli in un supporto attraverso cui li condividiamo con gli altri, facciamo un sortilegio che non aveva precedenti nella storia dell'umanità. Va molto di moda e si passa dalla parte dei giusti demonizzando i social media, ma in realtà nei social media sta creando il grande archivio della memoria dell'umanità, dell'umanità che probabilmente non avrà mai monumenti nelle piazze, non avrà mai strade intitolate, non avrà mai biblioteche con le loro opere, ma avrà tutta una serie di cammellini della memoria che qualcuno si è preso la briga di prendere, di rimandare in giro, di linkare ad altre persone, di osservare, di fare propri. Costeggiando un giardino, un violento, aggressivo e dolcissimo insieme profumo di pittosporo mi ha investita. Si è aperta improvvisa la porta della memoria di primavere ed estati giocate nel cortile del palazzo nel quale abitavo. Giocare a nascondersi. Il piacere e timore di farsi trovare. La siepe di pittosporo dietro la quale celavo la bimba timida che ero. E quel profumo che mi stordiva, nel quale mi immergevo felice. Stamattina, tra una macchina parcheggiata e un cassonetto, è tornato prepotente per portarmi indietro a via dell'Oceano Atlantico. Com'era? Mi piace riflettere che questa signora, di cui non ricordo esattamente le coordinate, un giorno telefonò a una delle tante radio che ho frequentato, in uno dei tanti programmi che ho fatto, e lasciò questo cammellino. E probabilmente questa mattina io, rimettendolo in circo, riaffidandolo a un'altra radio, affidandolo all'estero, ridò vitalità, una sorta di operazione non mediatica, medianica. Mi comporto come un medium nella vera accezione della parola e quindi ridò vita a un frammento di memoria di una donna che probabilmente si è persino dimenticata, ammesso che ella ancora esiste e sia in vita, di averlo lasciato una volta in una radio. La voce del console questa volta era solo stanca. Voglio morire adesso. Portate via i ricordi e fatemi morire subito, disse e aggiunse, per favore. Il cammellino ci pensò un po' su, poi decise che lo avrebbe accontentato. Era il meno che potesse fare. Un cammellino importante è legato al nonno, conosciuto nei miei primi 3 anni di vita. Lui mi tiene in braccio e mi mostra come sbarazzarsi dei ragni appesi al soffitto basso di un vecchio garage. Accostava loro un fiammifero acceso e quelle creaturine filiformi si riducevano in pochi secondi a un puntino dopo aver scoppiettato. Gli scrupoli della coscienza animalista erano ancora ben di là da venire e quel che ricordo è solo stupore e allegria. Spesso accade, proprio in questa giornata, che io debba leccarmi le ferite per le percosse subite per aver difeso la festa di Halloween che precede le feste consacrate di ogni santi e dei morti. Perché? Perché ho un mio particolare divertimento nel giocare con questi simboli grotteschi. L'ho sempre avuto, ce l'ho sin da bambino. E figuriamoci quando ho avuto la possibilità di giocare con i mostri, giocare con gli scheletri, giocare con le streghe, con le arpie, con le ossa divelte, con le budella sbudellate e via dicendo. L'eccezione che mi viene sollevata dice: ma non ti vergogni, in un momento in cui dovremmo ricordarci delle persone scomparse, tu giochi a basket con gli scheletri e con i teschi di plastica. Dico, vabbè, questa è una mia maniera per ricordare, una mia maniera per dare un senso, per giocare col macabro, per dimostrare che in fondo tutti i simboli che l'uomo si è sempre creato per esorcizzare la morte altro non sono che nude maniere per rappresentare le proprie paure. Quando noi non ci siamo più, che ci importerà mai l'esito del nostro teschio, la fine delle nostre ossa, a meno che non abbiamo un'incrollabile fede nella resurrezione della carne, allora quello ha un senso. Ma io sfido qualunque cristiano a dirmi sinceramente, crede veramente nella resurrezione della carne. Se così è, è un ottimo cristiano, altrimenti prende in giro. Detto questo, mi viene da pensare cosa sia oggi i luoghi di stoccaggio del materiale umano di persone morte che sta lì in attesa del giorno del giudizio, quindi della resurrezione della carne. Ho molte volte riflettuto sul fatto che i cimiteri oggi siano, l'ho detto più volte, delle terrificanti rappresentazioni della peggiore architettura popolare. Sono degli edifici a più piani con tutti questi fornetti irraggiungibili. Sfido una vedova o un povero padre avanti negli anni a salire sulla scaletta per andare a vedere il loculo dove si trova il figlio, il marito scomparso. Non sono più fatti per rappresentare il giardino dei morti che i vivi frequentavano per trovare un luogo intermedio fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti in cui potersi rincontrare. No, sono una sorta di luogo come equivalente a come si manda nelle periferie, nei quartieri periferici, nei grandi agglomerati dove viene messo ciò che dell'umanità viene considerato meno importante, luoghi dove viene ammassato il materiale umano in via di decomposizione, in via di incenerimento. Non c'è nessuna cura, nessuna attenzione, nessuna sacra geografia nel costruire questi luoghi. Quindi nello stesso posto in cui poco fa ho detto è possibile celebrare le nostre virtù eroiche e lasciare i nostri ricordi, è possibile forse creare qualcosa che assomigli a un luogo più decente in cui noi possiamo dare un senso di continuità rispetto alle persone che ci sopravvivono. Questo luogo è proprio la rete. Voi pensate che in fondo siamo tutti giovani frequentatori dei social media, ma ciò che noi lasciamo su Facebook, ad esempio, che è già bello organizzato anno per anno, mese per mese, album per album, pensiero per pensiero, beh, è già il sepolcro dei nostri ricordi. È già l'ultimo ostello in cui mettiamo i nostri cammellini, perché rimarrà lì per sempre, a meno che qualcuno ne rivendichi il possesso e una volta noi scomparsi verrà lì e dica: rivoglio le password del profilo Facebook di mio marito, di mio fratello, di mia moglie, del mio amore della vita, come molti spesso fanno. Perché ciò non accade, rimane lì per sempre. Io ho parecchi amici che sono morti e ancora vedo i loro profili Facebook. E ogni tanto non capisco perché, ma vedo la loro faccetta dell'icona del profilo che riappare nelle mie pagine più frequentate, anche se io non li vado mai a vedere, non li vado mai a cercare. Evidentemente nell'algoritmo nascosto dei social media esiste una maniera per riportarti continuamente in superficie ricordi delle persone scomparse, molto più di quanto si possa fare facendo quelle lunghe strade periferiche extraurbane per arrivare negli agglomerati di ossa che sono i moderni cimiteri. L'altro ieri, mentre mi preparavo un'insalata mista molto colorata, mi è balenata in mente, per la prima volta da allora, un'insalata forse uguale, che ci apprestavamo a mangiare in giardino con delle amiche, in attesa del primo allunaggio, quello di Armstrong. Mi sono chiesta, senza averne risposte, dove stesse questa piccola memoria e perché fosse sgusciata fuori proprio in quel momento. Rarissimo caso di cammellino che arriva, invece di essere portato via. Oggi la parola memoria è una parola che è al centro della nostra attività, della nostra quotidiana vita. La memoria è quella che è stoccata tutta la nostra musica, tutti i nostri film, in cui è racchiusa tutta la nostra vita sociale. La memoria del nostro smartphone contiene tutti i telefoni, tutti gli indirizzi, tutte le mail dei nostri amici. Quindi tutta la nostra vita relazionale è racchiusa in una memoria. Ma se la memoria della nostra vita potesse essere espansa e contenere tutte le nostre relazioni, tutti i nostri pensieri, tutte le fasi della nostra vita articolate in un database in cui noi possiamo incrociarle e dire tutti i momenti felici e appaiono i momenti felici, tutti gli amori e appaiono tutti gli amori, tutti i giorni più bui e appaiono tutti i giorni più bui, beh, noi avremmo il backup completo della nostra vita e non esiste forma di sopravvivenza in questo momento più concretizzabile in qualcosa di reale, di possibile, che non questa soluzione. Noi abitiamo in una casetta che sta proprio dentro le tue orecchie. Se vuoi entrare dentro, devi ripetere questa frase: cammellini della memoria che entrano ed escono dalle orecchie. Cammellini. Il console accettò di andare a trovare i cammellini. L'indomani si incamminò verso una radura dove lo aspettavano i cammellini. Il console non ci stette a pensare due ore, pronunciò: cammellini della memoria che entrano e escono dalle orecchie. Il console si stupì nel vedere il timpano e di vedere tutto il cerume. I cammellini gli indicarono una strada che il console seguì, la strada, e sbucò in un laboratorio pieno di ricordi. Lì c'era lui da giovane e da bambino e poi appena nato. Il console pianse di gioia nel vedere che i cammellini lo avevano aiutato pure a lasciare alcuni ricordi della sua nascita. I cammellini lo accompagnarono in una sala piena di ricordi. Cercò il ricordo di lui che compiva 10 anni. Ecco, questo è il mio cammellino vero. Questa voce che sentite è mio figlio Filippo, che oggi ha quasi 19 anni. Allora ne avrei avuti 4-5. Aveva un padre folle che parlava di cammellini a memoria. A forza di sentirlo, un giorno mi chiese di registrare un registratore a cassetta. Allora erano 15 anni fa, probabilmente anche forse qualche anno di più. Registrare la sua versione cammellini a memoria era la storia epica dell'aldilà, della conservazione della memoria, vista da un bambino il cui problema era entrare e uscire dalle orecchie con il cerume. Cura che gli sarà stata instillata quotidianamente dalla madre, probabilmente pulisciti le orecchie. Risento la voce di mio figlio che aveva 4 anni, 5 anni. La risentirà lui probabilmente per radio questa mattina. E questo è un cammellino. Altro non è un figlio che una trappola per la morte. Un figlio che ti somiglia, un figlio che lascia qualcosa di te, un figlio che è impregnato di qualcosa di te, è la più formidabile trappola che sia per la morte. E riuscire a riportare alla luce, in vita, un momento reale, divertente, disorganizzato, come tutta sempre stata disorganizzata la mia vita e totalmente scriteriato, e ritrasmetterlo alla radio, secondo me è la miglior maniera che ho per celebrare questi giorni, e quindi mi ritengo di aver soddisfatto le persone che mi hanno detto che, compiendo un rituale di elaborazione di Halloween, abbia fatto il più grande atto blasfemo possibile. Oggi spero di avervi soddisfatti.